Ecco, sono contento di essere qui con voi a meditare insieme sull'anima sacerdotale, e così mi è stato chiesto, cioè, fa parte dei temi di questo ritiro. Abbiamo tutti sullo sfondo di questo giorno, è il festeggiamento del 14 febbraio, che nella nostra famiglia sia la data in cui nostro padre Santo Maria fu aiutato dallo Spirito Santo, da Gesù, ad aprire, a rendersi conto che quello che aveva ricevuto il 2 ottobre, quella luce che conosciamo, della santità e dell'apostolato in mezzo al mondo, nel lavoro, nelle situazioni ordinarie della vita, non poteva essere solo per gli uomini, no? Ma anche per le donne, ovviamente, ma come diceva quell'articolo di Francesco Ogni Bene che abbiamo letto sull'Avvenire, anche lui era figlio del suo tempo. E poi sicuramente tu, Signore, l'hai trattato bene, nel senso che gli hai dato una cosa alla volta da fare, perché da giovane sacerdote 26enne, con solo 2 anni e poco più di ministero nella diocesi che non era la sua, insomma, era un po' faticoso fare tutto insieme. Quindi ha dato prima da cominciare un po' con gli uomini, poi con le donne, e poi dopo, più avanti, cosa che lui invece quella la desiderava, ci pensava, non sapeva come fare, gli ha anche fatto capire come poteva mettere dentro in questa famiglia della Chiesa, in questa nuova famiglia della Chiesa, no? Anche i sacerdoti diocesani. E sempre il 14 febbraio ecco, il caso del 1943, i sacerdoti diocesani, in realtà in quel momento erano i sacerdoti numerari, no? Poi dopo, più avanti, comprese come nella società sacerdotale ci fosse spazio per i sacerdoti diocesani. Però questo è molto bello, che il 14 febbraio, questo dico ad alta voce, sono cose che sicuramente anche voi avete meditato, no? Che il 14 febbraio è giorno degli innamorati, perché è una bella tradizione di San Valentino, che San Valentino c'ha una storia, forse agiografica, ma che lo rende, ecco, un santo adatto a questa devozione, a questo essere intercessore, no? Per coloro che desiderano sposarsi. Quindi è una festa cristiana San Valentino, e non è, poi dopo, beh, come sempre, anche le feste cristiane vengono utilizzate poi per motivi commerciali, ma però è una bella festa, no? Io ho fatto una riunione con un gruppo di genitori di una classe della scuola dove adesso faccio il cappellano, dedicato principalmente a genitori e docenti, e che è andata molto bene, però effettivamente qualcuno non è venuto perché aveva già organizzato il San Valentino, appunto, marito e moglie, ecco, che facevano una cena romantica bellissima, no? Per cui di fatto, però, per dire che è una realtà viva che anche aiuta i coniugi a ravvivare l'amore che li ha portati a lasciare la casa dei genitori e a unirsi a loro per dare vita a una famiglia nuova, e anche, quando Dio lo permette, ad altre creature, ad altri figli. E quindi la festa dell'amore è la festa quindi che la festa dell'amore è la festa anche della famiglia, è la festa della generatività della famiglia, no? Che insomma, l'amore è per sé diffusivo e tende alla generazione. In questa festa nostro Signore provvidenzialmente ha dato a San José Maria il seme delle donne, ha fatto nascere le donne nell'opera, no? Come a dire, ma quella che ti ho chiesto di fondare è una vera famiglia dove ci sono uomini e donne. E poi come poteva immaginare San José Maria, appunto giovane sacerdote in quel momento, che in questa famiglia alla fine la realtà, che è cominciata con alcuni ragazzi che lo seguivano, insomma, ecco, con la vocazione al celibato per dedicarsi a questa nuova realtà, poi che il Signore chiedeva loro, che sarebbero in futuro la gran parte dei membri dell'opera di questa nuova Arca dell'Alleanza, la chiamava lui, e sarebbero state persone sposate, no? E quante famiglie sono illuminate da questo spirito, che è lo spirito cristiano, è lo spirito del Vangelo, però così. Con la in qualche modo che rende facile o rende possibile il fatto di viverlo nella quotidianità della vita anche della famiglia. Quindi era giusto che l'opera si considerasse famiglia, che in una famiglia ci sono uomini e donne, e poi e questo è tutto il mondo, è aperta a tutti, no? Aperta a tutti e nessuno escluso. E come, perlomeno come apertura di possibilità di influenza positiva, no? Per cui tutti gli esseri umani possono essere influenzati positivamente dallo spirito che il Signore ha dato a San José Maria e che noi cerchiamo di coltivare per vocazione. Quindi proprio tutti, non ne sono escluso. Quindi se oggi attraverso internet persone anche lontanissime nella geografia e anche nella cultura possono attingere a qualche contenuto ed essere beneficati da questa realtà, benissimo, che non potranno mai conoscere da vicino che so, un centro dell'Opus Dei o partecipare a un ritiro, ma no, magari appunto anche gente nascosta, che non ha la possibilità, di muoversi, e malati, eccetera, no? Senz'altro anche i religiosi della Chiesa, che peraltro si sa che loro come spirito non possono avere la vocazione all'opera, ma possono essere cooperatori, possono comunque personalmente essere vivificati e poi aiutare noi con la loro preghiera ed il loro esempio, no? Nella comunione dei santi della Chiesa. E noi abbiamo sullo sfondo questo festeggiamento, questo giorno di gratitudine a Dio nel 90° della sezione femminile e nel 90° meno 13, per me è un po' difficile fare i calcoli così a mente. Che dovrebbe essere 77esimo, giusto? Sì, della Società della Santa Croce. E quindi questa festa, nella festa dell'amore, nella festa della famiglia, nella festa della generatività dell'amore, della bellezza dell'amore, il Signore ha voluto che nell'opera ci fosse anche il sacerdozio, ci fossero le donne, quindi nella stessa data, no, anche a nostro padre colpiva questa coincidenza, no? Quel giorno appunto celebrava la messa in un centro di donne lì a Madrid e nel suo cuore nacque la Società Sacerdotale della Santa Croce, addirittura con insomma, lo stemmino, il sigillo, il mondo con la croce dentro, il mondo con la croce dentro che il mondo, un bel cerchio che significa il mondo, che significa tutto il mondo, la realtà, tutte le realtà umane, tutti i lavori, tutti i luoghi, nessuno escluso, no? Perché uno può dire, escluso il luogo dove ci sono strutture di peccato, sì, è vero, però poi sono proprio quelle che invece sentono il bisogno di essere redente dalla croce di Cristo. Cioè, quindi l'ampiezza dell'apostolato che il Signore ci chiede è l'ampiezza del mondo, cioè la circonferenza del mondo, no? E altri mondi se ci fossero, no? E l'efficacia della croce di Gesù è dentro al mondo, come vi ricordate che qualcuno spiegava, non so se era forse Pedro Rodriguez in quell'articoletto in cui ha articolo, non articoletto, articolo ponderoso, in cui meditava su quella locuzione divina che nostro padre ebbe sempre durante una messa, era prima del 31, quando io sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me, no? Cioè, fu colpito durante la messa, mi pare durante la consacrazione, no? E da queste parole del Vangelo riascoltate in latino, et ego si exaltatus fura terra omnia intrama dominus, cioè Gesù al giovane San José Maria, in quel caso aveva 29 anni, grazie di Dio, buon umore, gli dice: guarda che quello che io ti ho affidato il 2 ottobre del 28, poi il 14 febbraio del 30, e qui quello era invece il 7 agosto del 31, festa della trasfigurazione a Madrid, quindi la trasfigurazione di Gesù sul monte Tabor, dove fa vedere la sua divinità. Gli dice: io quando sarò innalzato a terra attirerò tutti a me, quindi, e gli fece capire che i suoi figli e le sue figlie spirituali, a quel punto erano già presenti anche le donne nel suo cuore di sacerdote e di padre, genuit filios et filias, no? Voleva che si fosse scritto sulla sua tomba, e a me dispiace un po' che non sia stato scritto, perché era molto bello come frase della scrittura, molto esplicito nella generatività di figli e figlie spirituali, e che hanno i patriarchi. No? Comunque, Don Álvaro decise di non scriverlo, e quindi è così è. C'è scritto, poi adesso è cambiata anche la tomba, quindi non c'è più neanche la scritta del padre. So. E così corre la storia, no? E anche perché lui voleva che fosse scritto peccator dopo genio figlio se figlia su una bella riga e poi peccatore, no? Anche quello sarebbe stato bello, no? Perché ci avrebbe aiutato a capire che il santo è sempre anche peccatore, quindi a toglierci noi tanti problemi, tante fisime, tanti scrupoli, non lo so, penso io, no? Però comunque non è stato scritto, però lo sappiamo e quindi lo possiamo raccontare. Don Alvaro lo scrisse in una lettera, no? Ci svelò questo desiderio di padre, che poi disse, insomma, si disse: ma comunque fate quello che volete, cioè lasciò liberi i suoi successori di fare quello che ritenevano più opportuno. E quindi in quella messa stiamo ricordando insieme cose che voi sapete benissimo, ma portiamo all'orazione la nostra vita d'amore, la nostra storia d'amore, per parlarne con il Signore tra di noi. E voi, cioè il nostro Padre, cioè il Signore gli fece capire che la nostra vita messa sulla croce sarebbe stata efficace in mezzo al mondo, no? Allora io penso che c'è in quella frase di Gesù, in quella tua frase c'è sia l'essere sulla croce, però in realtà in quella frase c'è l'esaltazione, no? L'esaltazione della Santa Croce, che nella teologia di San Paolo, anche di San Giovanni, è molto evidente. Cioè tu sei innalzato e quindi sei messo come il serpente, no? Dell'Antico Testamento, che bastava guardarlo e si guariva dal suo morso, quindi sei proprio il serpente. Che è il serpente che striscia per terra, che viene maledetto da Dio, che è il demonio. Poi quelli lì che ti sono buttati come castigo da Dio per il popolo eletto che non credeva e che venivano morsi e potevano morire. Eppure lo stesso serpente innalzato diventa fonte di salvezza. Quindi, come vedete, i simboli cambiano di significato nelle mani di Dio, no? Cioè, quindi Nostro Signore fa diventare anche il nostro peccato, anche le nostre debolezze, anche le nostre fragilità, anche tutte le nostre così, povertà, le innalza da terra perché noi potessimo essere guardati come Cristo e quindi portare Cristo in tutti gli ambienti del mondo, no? E in quell'articolo che è stato pubblicato il 14 febbraio sull'Avvenire di Francesco Ogniebene, c'è una piccola frase, un'intervista a Federica Colzani che cita quella frase che definisce le donne dell'Opus Dei, donne di Cristo in mezzo al mondo. Mi pare una definizione molto felice, molto bella, no? Donne di Cristo in mezzo al mondo, ma questa è in continuità con grazia di Dio, con quella locuzione, quelle parole divine ascoltate da San Josemaria nella messa del 7 agosto del 31, quando io sarò esaltato da terra. Attirerò tutti a me, compresi che sarebbero state i figli e le figlie di Dio in mezzo al mondo ad attrarre a sé, a Cristo tutte le cose, no? E quindi questo è, noi meditiamo sul fatto che questo è il nostro statuto, anche se abbiamo strisciato per terra oppure siamo stati morsi dal serpente, però poi tutto questo diventa, cioè Cristo prende con sé il peccato. Se li mette tutti sulle spalle, si lascia inchiodare alla croce e da lì attrae a sé tutte le cose, no? Per cui io vorrei che tu e io meditassimo oggi che siamo, voi donne e io, sacerdote di Cristo in mezzo al mondo per attrarre a Cristo tutte le cose nel nostro stare, no, nel nostro normale stare in mezzo al mondo, nell'ambiente di lavoro più diversi, nelle situazioni più normali, insomma, quelle che siano, e di fatto è proprio così, no? E ciascuno di voi ha questa esperienza e penso che sarebbe bello farla continuamente e anche annotarla a noi, cioè scoprire che Gesù ha preso possesso dei nostri cuori e dei nostri corpi, cioè della nostra persona in generale, della nostra intelligenza, della nostra volontà, e Gesù, tu lo fai tutti i giorni nella Santa Messa, cioè durante la Messa tu vieni esaltato in mezzo al mondo, innalzato per essere croce che salva. E poi entri nel nostro cuore con l'Eucaristia e quindi ci rendi continuamente con sovrabbondanza di grazia infinita, perché essere parte di te, essere, diciamo così, appunto, essere la stessa cosa con te, essere una sola cosa con te, essere una sola carne, un solo spirito con te, indubbiamente ci rende continuamente Cristo. Questo anche se se qualche volta non si riesce ad andare a messa, è lo stesso, non è che viene meno, cioè se riusciamo ad andare ogni giorno, riceviamo tutta questa grazia abbondantissima e quindi lo desideriamo tanto. Perché anche possiamo portarti nella messa e quindi sulla croce perché tu li possa santificare, sei tu che attrai a te tutte le cose, omnium tramat me ipsum, cioè tutto attrarrà a me tutte le cose, no? Tutte le persone, tutte le cose. Però noi, idealmente, se possiamo contribuire a qualcosa, intanto portiamo noi stessi all'altare, no? Cioè, come dicevano una volta, no, io quando ero chierichetto a Sant'Ildefonso, a 7 anni, perché 7 anni e mezzo, 8 anni, insomma, perché avevo fatto la comunione prima, perché così potevo andare insieme con mio fratello Stefano al catechismo, così la mamma semplificava un po' la sua vita, avendo 5 figli, insomma, e andavamo insieme. Quindi lui aveva 7 anni, io 6, quindi abbiamo fatto la comunione insieme. E poi dopo il prete dell'oratorio, il coadiutore, che si chiamava Don Enrico Casati, che poi fu parroco a San Pietro in Sala per tanti anni e fino quasi al termine della sua vita, e grande liturgista, e nell'epoca poi, in quell'epoca, avveniva il Vaticano II, per cui mi ricordo benissimo che. Quindi comunque lui che aveva la passione anche del canto liturgico, curava un coro di ragazzi e quindi lui si metteva lì ad ascoltare la voce di ciascuno e sceglieva i cantori, no? Per il suo coro e scelse mio fratello Stefano come cantore. Invece la mia voce evidentemente non gli piacque. Era un po' stonata e quindi la seconda scelta, vabbè, quelli che non servivano per il coro potevano servire per il servizio all'altare, no? Quindi forse dal punto di vista teologico non è proprio così la priorità, però di fatto lui dal punto di vista pratico, infatti fece un coro molto bello che poi incise dei dischi, facevano dei canti scout, no? Era proprio un tipo molto attivo e molto. E fra l'altro a noi ragazzini dovevamo fare il servizio all'altare. Esigeva che noi imparassimo tutte le risposte in latino, un latino precisissimo, e mi interrogò e mi bocciò. Fu una delle tante bruciature e mi costò un sacco, infatti, però venne da me, c'era era l'oratorio di Sant'Ildefonso, quindi c'erano dei giovani di Azione Cattolica che facevano un po' da animatori, e quindi lui si rese conto che io ero rimasto molto male e mi consolò, mi incoraggiò, mi fece anche lui mi aiutò a ripetere il credo, perché io avevo sbagliato delle desinenze, no? Nei miei 8 anni avevo sbagliato le desinenze, quindi. E poi quindi mi preparò per un secondo esame che passai. E era un po' duretto con Enrico, poi si è smollato un po', no? Poi dopo improvvisamente qualche mese dopo basta, non c'è più il latino, niente, quindi niente. Però io in quelle prime messe che servì effettivamente anche nell'Ambrosiano c'era questo, il prete diceva nell'antico rito, cioè introibo ad altare dei Adeunque, e poi e si rispondeva Adeunque letificat Juventutem meam, cioè un salmo all'altare di Dio, al Dio che rallegra la mia giovinezza, no? Che allieta la mia giovinezza. E allora, ecco, noi cioè, sto mi venuto in mente questo introibo ad altare dei. Cioè che ciascuno di voi può dire, ma anche io, cioè interiormente, cioè entro all'altare del Signore, cioè mi porto all'altare del Signore ogni giorno, Gesù, tutta la mia vita, tutta la mia vita, no? Cioè tutta la mia vita, sia le cose belle, tutti i lavori, tutte le preoccupazioni, le tensioni, le gioie, i sorrisi, gli amori, insomma. Le malattie, i dolori, cioè tutti i propositi, i progetti, ma anche le questioni molto quotidiane, no? L'aprire l'acqua, l'aprire il gas, il chiudere il gas, il buttare i rifiuti nella pattumiera e poi portarla giù, non so, dove si, insomma. Nella casa dove abitano ancora i miei genitori c'è un sistema tipicamente milanese molto organizzato che è insomma c'è un tubo dove si buttano e quindi finisce proprio nel bidone, insomma poi ci pensa il portinaio. Comunque insomma, ogni sistema è valido, però ecco questo tipo di lavori quotidiani. Lavare i piatti, no? A me è sempre l'impressione di ecco questo tipo di lavoro che non è mai finito, no? E che si prepara per la sera, per il giorno dopo, ed è una continuità, quindi e ci richiama, se volete, quell'immagine di San José Maria che vedeva appunto la cosiddetta noria, che non ho mai visto, ma evidentemente quella sorta di girare dell'asino attorno al pozzo per tirare su l'acqua e poi irrigare il campo, cioè quello è un lavoro noioso o comunque sì, nella sostanza, che però dà frutto e quindi, a parte che serve alla vita della casa, alla vita della famiglia, alla vita di tutti noi, a renderla amabile e bella e pulita e gradevole, però poi portato alla messa serve ad attrarre le persone a Cristo. Grande mistero, no? Com'è possibile, no, che la lavatura di piatti o la sbucciatura di patate o la pulitura dell'insalata o lavare i pavimenti, spolverare i mobili o qualunque altra cosa, no? Correggere i compiti, insomma, preparare gli strumenti di lavoro, qualunque situazione possa servire ad attrarre le persone a Cristo, no? Ed è proprio così, perché tu, Gesù, sulla croce, sì, hai dato la vita, nel senso della proprio la vita, hai versato il sangue, che in modo particolare per gli ebrei era il luogo della vita, no? E hai donato il sangue, hai donato il corpo, no? Hai donato a te stesso. E ti sei preso i peccati e ti sei fatto vittima per i peccati. Poi, però, hai portato con te tutta la tua vita di uomo e quindi anche tutta questa quotidianità dei decenni precedenti, rendendola già quando tu la vivevi, no? La quotidianità del tuo lavoro in Egitto, a Nazareth, era redentiva, e adesso sulla croce lo diventa ancora di più. E il tuo sangue che cola dal tuo corpo e bagna il terreno rende finalmente ancora di più che con il tuo passare, con i tuoi sandali, con i tuoi piedi che poi vengono lavati dalle lacrime della peccatrice e che tu stesso lavi nei tuoi discepoli come gesto, come simbolo di tutta la nostra vita sacerdotale, del sacerdote ordinato per essere immagine di Cristo capo e del sacerdote del fedele battezzato, no? Questi piedi che hanno santificato la terra, questa nostra terra, però ecco, questo suolo viene santificato dal tuo sangue. E quindi non è più maledetto da Dio, anche se dopo il peccato fu maledetto da Dio, non è più maledetto da Dio, è benedetto da Dio il suolo. Per questo noi possiamo nella messa dire, benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. La terra non è più maledetta da Dio, anche se un po' di fatica, un po' di sudore sempre ce lo dà. Il lavoro sempre mantiene questa difficoltà e così noi siamo fatti sacerdoti della nostra esistenza. Il battesimo ci ha resi Cristo e questo sono gli uomini e le donne di Dio, tutti i cristiani, lo sono. La gente che ha lo spirito dell'Opus Dei lo coglie, lo medita, lo percepisce e recentemente, voi sapete benissimo anche che nell'ultimo documento, io ho letto qualche stralcio, e c'è anche qualche stralcio dell'ultimo documento del Papa, cara Amazzonia, mi pare, se non erro, che appunto spiega anche come, un'altra, insomma, ulteriormente, no? Non è la prima volta che il Magistero della Chiesa arriva su queste cose, che la donna non è necessario che sia sacerdote ordinato, anzi, non può essere. Però non è sminuente questa cosa, perché ha tutto un compito sacerdotale da vivere come donna in mezzo al mondo, e quindi noi ci troviamo bene con questa spiegazione, molto bene, no? Il Papa che dice che non bisogna clericare i laici, e qualcuno è battezzato, c'è cioè qualche uomo battezzato, voi sapete, lo ricordo spesso, che André Frossard, quel giornalista francese, diceva: ma siccome nella passione di Cristo le donne sono state brave, non hanno non sono stati protagonisti della sua passione, sono stati solo gli uomini. Allora Gesù ha detto: beh, il peso del sacerdozio lo do solo agli uomini. È una battuta da intelligente intellettuale francese, e che era laico peraltro, e quindi che rimane una battuta, ma mi piace perché dice: un momento, perché, cioè, sì, ok, il sacerdozio è un onore, ma è anche un peso, è anche insomma, un impegno molto, molto gravoso, no? E allora per questo la Chiesa viene incoraggiata a pregare per i sacerdoti. Infatti il 14 febbraio anche lo abbiamo fatto. E allora noi siamo chiamati a ricordarci ogni tanto di questo sacerdozio della nostra vita, questo essere Cristo in mezzo al mondo, e di avere questo potere straordinario di attrarre a Cristo, che sei tu, tutte le cose che tu tocchi, che tu fai, che tu pensi, sulle quali inciampi, e tutte le persone che stanno nel tuo cuore, tutte le persone che incontri, tutte le persone, e col fatto stesso di incontrare te, col fatto stesso di incontrare te, se tu sei consapevole di questa potenza che è totalmente donata da Dio, non è un merito, è Cristo che ti riempie la vita, no? Con la sua Eucaristia. Quindi è Cristo che ti mette sulla croce con sé, è Cristo che ti porta vicino a sé, che ti riempie di Lui, e allora tu sei Cristo in mezzo al mondo. E allora, certo, da parte nostra, Gesù, vogliamo imparare tutte le tue virtù sacerdotali e cercare di viverle, no? Cercare di viverle. A me veniva in mente di fare questa meditazione, ma è già finita, anzi è fin troppo finita, sulla Samaritana, come immagine non solo della sacerdotalità di Cristo, ma anche della sua, della donna. E ve lo lascio, vado a pensare. Cioè, lei ha ricevuto su di sé il sacerdozio tuo, Gesù, come attenzione, come tante cose bellissime, e come non condanna, come portarti schiuderti orizzonti meravigliosi di vita cristiana, di preghiera. E quindi tu, donna samaritana, lo fai con i tuoi compaesani, e lo farai sempre, tant'è vero che poi racconterai queste cose, insomma, che sono arrivate fino nel Vangelo. Dovevi essere una donna, sì, molto inserita tra i primi cristiani. E così, con questa immagine, noi concludiamo la meditazione chiedendo alla Madonna, Madre del Bell'Amore, che ci aiuti a considerare questo mistero grande e bello della nostra vita, e quindi più ne siamo consapevoli, più forse possiamo applicare questa forza ai luoghi, alle cose, alle persone che incontriamo, perché possano essere attratti da Cristo attraverso di noi.